perché c'è tempo. Voi per parlare di... No, io non sono qui con voi. L'io è un alieno, ovvero un'assenza di conoscenza. Il tutto non va considerato pieno. L'infinito è possibilità, regni per ora fuori. Riempiti antropocentricamente come pratisti con i resti degli altri regni di eucarioti. Gli alieni sono sulla terra, ma non nell'area 51. Sono gli animali che non ha conosciuto nessuno. Dall'archeologia al fondo degli oceani, ciò vale per ogni novità non ancora riconosciuta come tale. Coperta con il medesimo che scremo. Non alienazione, ma un alienamento. Sto divenendo un alieno, ma invischiandomi bene negli sfaceli. Solo quando è crocifisso un dio, accesso al dantesco regno dei cieli grottesco. Ogni nostra scorciatoia la Stargate. Non sia mai cercare soluzioni il tuo schiacciar play. Oggigiorno le canzoni sulla guerra sono tante, ma proprio in quanto adatte alla pace speculativa che c'è intorno. Fa figo parlare di sangue, ma pochi scrivono col sangue. Pensaci bene, la frase più potente che ho letto sulla scrittura. Fregatene dell'autore, della correttezza della citazione. Valorizza il consiglio, se no è conoscenza occasionale fatta con l'ante concezionale. Non può dare un figlio, un figlio fa sputare sangue e placenta. Ogni nascita è bellissima ed orrenda, e non farti immagini perché rinchiudono, ma rinchiudere quello che ancora alieni, come cercare gli alieni su Google.